Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Abbiamo piazzato le più moderne microspie dietro ogni interruttore della luce, perfino in bagno. Abbiamo anche microtelecamere. Ha promesso di trovare qualcosa. Perciò trovi qualcosa. Trovi qualcosa contro quell'uomo, non mi deluda. Di tutto questo non c'è più nessun bisogno. Anche se più volte ci siamo soffermati sulle tecnologie fai da te per investigare, per scoprire, per indagare, per farsi i fatti degli altri, per capire se uno c'ha le corna. Tutto un apparato che in realtà diventa superfluo se noi riflettiamo su un dato che è incontrovertibile, è inoppugnabile. Oramai ognuno di noi fornisce a chiunque una mappa esatta, perfetta, molto dettagliata della sua vita personale, della sua vita privata. Le vite degli altri non sono più accessibili attraverso sofisticati sistemi di investigazione, o perlomeno i livelli più profondi lo saranno senz'altro, ma le vite degli altri, compresa la nostra, sono leggibili, molto facilmente leggibili. Questo non preoccupa molto nessuno di noi, dal momento che anche quando leggiamo notizie di grandi movimenti internazionali, di schedature massive, di database che racchiudono tutti i metadati della nostra esistenza, non ce ne facciamo grande problema, continuiamo a mandare gli sms che abbiamo sempre mandato, continuiamo a chattare con le persone con cui abbiamo sempre chattato, continuiamo ogni istante epico della nostra vita a dare traccia a quello che noi facciamo. Esempio banalissimo, mi sono accorto ieri sera, dopo 16 ore che stavo in giro, che mi ero messo una scarpa di un modello e una scarpa di un altro. Le scarpe diverse, differenti. Capita quando uno ormai si appassisce il cervello. Me ne sono accorto soltanto la sera. Alle mezzanotte e mezzo mi valgo da togliere le scarpe e vedo che erano diverse. Dico, ma nessuno se n'è accorto tutt'oggi. Nessuno se n'era accorto, quindi la mia defiance poteva passare del tutto inosservata. Invece no. L'ho fotografate con il mio tablet, l'ho messa subito su Facebook e oggi ancora la popolazione sta discutendo, aggiungendo loro foto di quanto sia facile, usuale, mettere le scarpe differenti. Ecco, tutto questo, al di là della facezia, è naturalmente un terreno anche molto utile di lavoro. Dobbiamo vederlo soltanto come una chiave intrusiva della nostra privatezza. Dobbiamo innanzitutto cominciare a riponderare e a ripensare quelli che sono i termini o il concetto astratto di ciò che noi intendiamo per privato. E in secondo luogo dobbiamo capire gli strumenti tecnici, reali, legali, che possono essere usati da persone che per mestiere hanno la necessità, il bisogno comunque di capire un po' più rispetto a una prima facciata di dati esteriori. Questi sono investigatori, sono anche giornalisti e sono persone come me che a un certo punto devono fare un'inchiesta e vogliono capire di più rispetto a quello che gli altri capiscono. Normalmente il giornalista ha sempre avuto delle sue fonti particolari, privilegiate rispetto all'uomo della strada, per questo lui fa il mediatore. Molte di queste fonti sono oggi alla portata di tutti, sono cosiddette le fonti aperte. Le fonti aperte sono quelle che chiunque può andare a vedere, chiunque abbia poi strumenti di usarle e guardarle fino in fondo. Su questo tema, che è molto interessante, per la prima volta è stato fatto un libro esaustivo, mirato, perlomeno che spiega in maniera limpida, dove non c'è nessun mistero e nulla, mi sembra, poi lo vedremo fino in fondo, di illegale che vada contro la privatezza di nessuno, a osservare e guardare le fonti aperte. Il libro è il libro Esplorare Internet, un manuale di investigazioni digitali e open source intelligence Minerva Edizioni, che sarà in libreria dalla prossima settimana. L'autore è Leonida Reitano. Buongiorno. Buongiorno. La prima domanda che ci viene di farle è capire se tutto quello che lei scrive nel suo libro, che è interessante, è un libro molto tecnico, però è un libro di chi si vuole prendere la cura di capire esattamente fino a che punto arrivi la disponibilità che noi diamo agli altri dei nostri dati personali, sensibili, chiamiamoli come vogliamo. Ecco, è importante capire, tutto quello che è scritto in questo libro è un'operazione che può essere fatta senza temere che qualcuno possa poi accusarci di andare oltre i limiti che la legge prescrive di guardare nelle vite degli altri? Ma guardi, assolutamente sì, anche perché il libro è stato poi visionato anche da due avvocati, di cui uno è Giovan Battista Gallus, che è un esperto di diritto. Quindi lei si è cautelato di non mettere in giro uno strumento di scardinamento delle vite altrui, ecco. Anche perché, diciamo, le attività investigative in Italia sono regolate da licenza della prefettura, per cui in alcun modo è possibile svolgere attività investigative, diciamo, vere senza questa licenza. In realtà l'attività di fonte aperte viene da loro individuata come una sorta di ricerche accademiche, quindi ovviamente si tratta appunto di una, come dire, disciplina particolare che è assolutamente legale, quindi non comporta neanche il rischio, diciamo, di entrare in un campo come quello delle investigazioni che può essere presiduto, occupato solo da chi ha una regolare licenza. Ovviamente questo non vale per i giornalisti che, come dire, proprio per la loro professione sono abilitati a fare inchieste. Ecco, ricordo che Leonida Aretana è un dottore di ricerca in sociologia della comunicazione, quindi è un sociologo, si occupa di sociologia, si occupa attualmente giornalismo d'inchiesta e applicata proprio alle possibilità che si hanno attraverso i new media di fare questo tipo di indagini. Ha vinto un premio appunto per una sua inchiesta, il premio Best International Crime Report, organizzato dal premio Ilaria Alpi. Andiamo un po' nello specifico per far capire alle persone, non tutti, per molti internet è un oggetto di consultazione, poi non è, sono molto interessati al back-end dietro le operazioni che fanno. Cominciamo ad esempio, la vita di ognuno di noi in che percentuale è spalmata attraverso gli strumenti? Partiamo da un normale cittadino, non che abbia attività di impresa particolari, che ha una vita, un lavoro dipendente, una sua vita sociale, giochicchia come fanno tutti, usa i social network, magari ha un suo blog dove racconta le sue partite di pesca sportiva. Ecco, faccio un esempio ai limiti. Ecco. In che percentuale è possibile capire esattamente se fosse oggetto di una nostra investigazione, anche giornalistica? Io voglio capire quanto questa persona può essere alla corrente di alcuni episodi accaduti nella sua città, nel suo paese o nel suo quartiere. Fino a che punto posso andare? Ma ovviamente questo dipende dalla proiezione digitale della persona in questione. Quando lei correttamente parlava appunto, no? di proiezione digitale dei nostri dati personali, ecco, da sociologo le dico che la privacy è un valore che si sta erodendo, ma lo stiamo scientemente erodendo tutti perché consapevolmente e volontariamente mettiamo dati che una volta appartenevano alla nostra sfera intima sui social network. Quindi questo già è un... Quindi come minimo è da riscrivere, da ripensare, non è più come la pensavamo 10 anni fa, ecco. Esatto. Così. E poi peraltro comunque le posso dire che sempre in maniera assolutamente legale, da un banale curriculum, passando attraverso certi portali, si possono avere informazioni come le auto possedute, le case possedute, il lavoro che si è fatto, il domicilio dove si abita, tutte le società in cui si è stato soci. Quindi è possibile fare una scansione abbastanza penetrante nella vita di ognuno di noi. Le faccio un esempio banalissimo: oggi quando c'è un personaggio implicato in qualsiasi episodio di cronaca nera, ma faccio l'esempio ultimo delle Baby Squillo, subito nei giornali appaiono i loro profili Facebook, perché immediatamente lì si vede, da una frase, da un post, dagli amici che sono comunque visibili, anche se uno pone alcuni limiti, poi nessuno ha più tempo di porre i limiti, cambiano le policy così velocemente che nessuno si adegua mai, si hanno molte informazioni. Poi volevo fare una domanda a un altro ospite, Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Vaciago, avvocato, penalista, partner dello studio Rep Legal, docente di informatica giuridica. Giuseppe Vaciago, solo per capire, è proprio vero e proprio giusto che noi non possiamo, non dico tutelarci, ma farci delle preoccupazioni rispetto a quello che normalmente, apertamente, possa essere investigato la nostra vita attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione di indagare le fonti aperte, cioè i miei siti, quello che di me hanno scritto, quello che ho messo di me in rete? Beh, allora, è una bellissima domanda. Io cercherò di essere il più sintetico possibile. Da un punto di vista strettamente legale condivido quello che è stato detto prima e poi confermato anche dall'amico Gallus che è stato citato. Certamente è legale. Io però vorrei che non fosse legale, cioè questo è il mio punto di vista, una provocazione. Cerco di rifarmi velocissimamente a due teorie che purtroppo sono fuori dall'Italia, perché noi in Italia non abbiamo ancora una percezione reale del problema. C'è un autore, diciamo, inglese che ha scritto un libro importante che si chiama Regulation of Internet Surveillance, che si chiama Gillespie, che dice una cosa molto semplice. Se tu metti qualcosa in pubblico, sono affari tuoi. Simile alla teoria di Smith che dice nothing to hide, cioè se lo hai messo, ti assumi la responsabilità sostanzialmente di ciò che è messo online. Però c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2000 che dice che le informazioni pubbliche possono invece rientrare e essere protette dalla privacy se sono sistematicamente raccolte e memorizzate in fascicoli tenuti da appunto autorità o anche soggetti privati. Quindi il tema è, un conto è chiaro che è un'informazione pubblica, ma quando si fa una sistematica raccolta di queste informazioni, e già vediamo i principi generali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già ce lo introduco. Cioè, se io faccio un dossier sull'avvocato Vaciago, semplicemente prendendo le sue cose, me le metto in delle cartelle, mi tiro giù con un software tutti i suoi siti, comincio a guardare dentro questi siti e organizzare il materiale secondo un database, già è in qualcosa che secondo te rasenta l'illegalità? Per me ovviamente oggi la legge italiana non si pone il problema, quindi confermo quello che è stato detto quindi prima, ma se lo dovrebbe porre il problema, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo questa sentenza l'ha fatta nel 2000, questi problemi se li è posti nel 2000, quindi noi dobbiamo secondo me fare una riflessione matura e profonda sul fatto che sia ammissibile fare una cosa del genere, che va al di là del tema della privacy, d'accordissimo, deve cambiare la teoria della privacy, ma questa è una cosa un po' più delicata, va verso anche dei diritti fondamentali dell'individuo che superano quelli della privacy, perché se io tengo un dossier e un investigatore privato tiene un dossier, secondo me va un pochino oltre, ecco, quello che è il tema generale della privacy. Mi sembra molto interessante, Giuseppe Vaciago. Ci fermiamo solo un istante per le informazioni del traffico, poi la riprendiamo proprio da questo punto. Tecnicamente, legalmente, noi possiamo usare e manipolare per nostro interesse le fonti aperte che ognuno mette a disposizione, però il punto è, come dice Vaciago, verrà un momento in cui qualcuno si porrà il problema di dire sì, ma perché nella tua memoria digitale ci sta tutta la mia vita racchiusa per anni, per nomi, per importanti eventi, cosa ti importa di me? E questo forse meriterebbe un'attenzione superiore. Melog, cronache meridiane. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Ah, questi artisti. Loro se la spassano. Sono molto più contento quando mi mandano a controllare artisti invece dei preti o quegli apostoli della pace. Ecco, riascoltare adesso dei passaggi del film Le vite degli altri, alla luce di quello che stiamo dicendo, mi rendo conto che in realtà, anche se sono passati non moltissimi anni, è cambiato completamente il punto di vista. Capire, immaginare, intuire delle persone abbiano tra loro comunque dei rapporti di frequentazione, basta andare a incrociare i loro messaggi, i loro tweet, quello che pubblicamente appare. Poi chiaro, uno non ha la certezza, per avere la certezza deve comunque mettere microfoni, telecamere, oggetti di investigazione ambientale, ma comunque si rende conto che qualcosa potrebbe esserci, cioè, poi fa il passo successivo o lo faranno altri. Stiamo parlando questa mattina del libro Esplorare Internet e del professor Leonida Reitano, che è un manuale di investigazione digitale che spiega per la prima volta tecnicamente come si può estrarre dei dati molto utili e interessanti sulla vita di una persona per fini investigativi, per fini d'inchiesta, di giornalismo d'inchiesta, semplicemente guardando le fonti aperte, cioè quello che ognuno di noi lascia di sé, l'ombra digitale che sta in rete. L'avvocato Giuseppe Vaciago, che è un penalista molto esperto di questioni di tipo digitale, dice sì, però attenzione, le fonti sono aperte, ma quando cominci sistematicamente a organizzare il materiale sulla vita di un altro, cominci a entrare in un'area che andrebbe perlomeno da un punto di vista normativo ripensata. Mattia Epifani, buongiorno. Buongiorno. Mattia Epifani è un consulente tecnico in materia di investigazioni digitali per diverse procure italiane. Ora, lo stesso lavoro che fanno i giornalisti investigativi che ci ha oggi spiegato Leonida Reitano, le procure lo fanno però con strumenti autorizzati che vanno più in profondità, o semplicemente le fonti aperte sono già uno strumento sufficiente per ciò che serve alle procure? Dunque, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutto, Diciamo che dobbiamo distinguere secondo me due casi. Il primo caso è quando le fonti aperte servono in fase di investigazione, quando ancora banalmente non c'è una persona o un gruppo di persone sospettate e quindi si hanno delle ipotesi e si comincia da elementi pubblici per cercare di tracciare un profilo di contatti che possono esserci tra diversi soggetti. Altra cosa è invece quando già c'è un qualche sospettato di un qualsiasi crimine e a partire dai dati che sono presenti nei suoi dispositivi, magari che sono stati sequestrati nell'ambito del procedimento, che possono essere computer, telefoni cellulari, eccetera, si vanno a ricercare informazioni su soggetti che non sono al momento oggetto di indagine, ma che con i quali il soggetto indagato ha avuto dei contatti. Quindi da lì si parte e per partire si parte sempre da fonti aperte, perché fino a che non c'è un concreto sospetto che quella persona possa essere coinvolta anche lei nel crimine, le fonti aperte sono preziosissime. Quindi distinguerei sicuramente questi due casi da un punto di vista. Anche perché diciamo che io come giornalista, Leonardo Aritano come ricercatore sociologo, ma anche non possiamo andare oltre quello che non possiamo certo cominciare a mettere in azione dispositivi più invasivi, come ad esempio, ne so, delle chiavi hardware che ci guardano i computer degli altri, dei software spia, o peggio ancora non possiamo simulare, come accade, non so, delle associazioni che si occupano di repressione dei crimini sessuali, hanno messo in rete una bambina digitale che serve a calamitare i pedofili, ne hanno presi tantissima, probabilmente loro hanno autorizzazione di farlo. Leonardo Aritano invece, velocemente, quali sono gli strumenti che usa? Al di là del banale cercare e scaricare dati, ci sono dei software però che rientrano ancora nell'area, diciamo, grigia forse, non so, delle possibilità di usare che ci permettono di facilitare la ricerca nelle fonti aperte? Ma diciamo la disponibilità di software per la ricerca nel campo, diciamo, delle fonti aperte su internet, perché poi volevo ricordare che la disciplina delle fonti aperte è una disciplina un po' antica e che nasce nell'ambito dell'intelligence, per cui era già attiva quando c'erano solo le fonti cartacee barra radio. Perché io mi ricordo, infatti, a volte le fonti aperte era semplicemente guardare le rassegne dei giornali. Ma per esempio nell'archivio cartaceo dei giornali era questo. Paradossalmente, una delle prime entità che si è occupata per l'intelligence di fonti aperte è stata la BBC. La BBC nel 1939 aveva un servizio che si chiama BBC Monitoring, attivo tutt'oggi, che faceva una scansione, ovviamente, del materiale stampato, ma non solo, anche trasmissioni radio, filmati cinematografici, eccetera, eccetera, per fare valutazioni di contesto che poi potevano servire ad approfondimenti più mirati. Quindi innanzitutto mi premeva a fare questa precisazione. Ecco, invece sulla mia domanda, cosa bisognerebbe prendersi? Sono cose che si acquistano, sono cose che trovano gratuitamente? Sono software che vanno, io adesso nel mio manuale, ovviamente sì, ne cita tantissimi. Ho disegnato, che poi è basato su un corso che io faccio, quindi è strettamente operativo e soprattutto è rodato e testato. Ho disegnato ovviamente un corso con costi, diciamo, di quel software abbordabilissimi anche per un giornalista, 400-500 euro all'anno. Tenete presente che i software professionali di OSINT, usati dalle agenzie di intelligence, ma anche dai grandi centri di giornalismo investigativo internazionale, costano fino a 15.000 euro. Quindi dipende anche dalle disponibilità economiche di chi poi va a sviluppare questo tipo di attività. Comunque diciamo che attrezzandosi, come una volta un giornalista si attrezzava con delle macchine fotografiche, con degli strumenti di trasmissione dei propri pezzi, attrezzandosi si può avere un passo in più. Però questo passo in più, Giuseppe Vagiago, proprio in conclusione, abbiamo un minuto, quanto deve tenere conto comunque di la necessaria prudenza che lei all'inizio aveva indicato in questa legge, che ancora forse non è scritta in maniera adeguata rispetto a quelle sono le norme europee? Tantissimo. Chiudo con un esempio. C'è un software che si chiama PredPol che viene utilizzato dalla polizia americana in alcune città e che permette di prevedere i reati basandosi su informazioni raccolte sicuramente negli archivi della polizia. Sembra un film, sembra. Ma su fonti aperte. Sì, assolutamente. Vi consiglio a tutti di andare a guardare su internet, perché appunto è il noto film Minority Report trasposto nella realtà. Questo software è utilizzato e dicono riduca il 30% della criminalità nelle varie città americane in cui è utilizzato. Lascio con questo spunto, perché ovviamente di più non posso dire visto che ho soltanto un minuto. Grazie Giuseppe Vaciago, grazie agli altri nostri ospiti, ci sentiamo lunedì.